24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. So anch'io che c'è tanta gente che preferisce un passerotto in mano piuttosto che il tacchino sul tetto. Ho impiegato un mese per capire la storia del passero, del tacchino, quella di Bersani. Cioè, l'ha capita? Farò un master in bersanese. Cari italiani, ci siamo quasi, siamo all'ultimo miglio. Siamo alla fine della campagna elettorale, l'ultimo giorno, poi silenzio da oggi a mezzanotte, credo, Come al solito, anche l'ultimo giorno viviamolo così. But please relax. E allora siamo pronti a aprire il nostro bar condicio con Nicole Minetti che ci offre il caffè, sempre. Il caffè volentieri a tutti quanti. Come sempre, come se sempre. Se non voti ti fai del male. Oh mannaggia. Se non voti ti fai del male. È così. Mi vuoi dire per quale partito io dovrei votare? Se non voti ti fai del male. Loro promettono solo bugie. Ti fai del vabbè, male. Questo è Celentano che oggi fa l'endorsement ufficiale sul Fatto Quotidiano. Era atteso, Saluto Vladimir Luxuria, buongiorno e ben ritrovata, eccoci qua. Buongiorno. È bella questa canzone di Celentano? Ancora non l'ho masticata bene. Insomma, mi sembra un po'. Non lo so. Un po' una litania, bella. Sì, un po' una litania, un po' sembra una. Ma non lo so. Paolo Del Debbio, buongiorno. Buongiorno. Com'è sta canzone? Le chiamavano Nenie nella parola. Nenie. Una nenia, una nenia. Poi c'è anche il Molise che stanno uccidendo. Il Molise, sentite. Come un gruviera. Ti fai del male. Da quei fantasmi eolici che muovono il vento. Io non esco più da questo verso. Sono come in un incubo. Poi c'è il Molise che sta morendo, bombardato come un gruviera dalle pale eoliche del vento. Del Debbio, ma questo è Pascoli, veramente. Il mondo è bello perché va e ognuno la vede come vuole. Ecco, vabbè. Allora, Vladimir Luxuria. Vladimir ha deciso. Sì, vabbè, ci sono altri problemi, però lo so. Vabbè, non stuzzichiamo subito Celentano. Tra poco vedremo l'endorsement sul fatto. Vladimir ha deciso cosa votare? Sì, ho deciso. Intanto ho deciso di votare. Che è già una grande cosa. Perché facciamo il nostro esperimento Twitter. Lo sto scrivendo su Twitter. Vladi Luxuria, questo giusto, ha deciso di votare. E ci dice anche chi? Ma non è uno scoop. Voterò per Vendola, Sinistra Ecologia e Libertà. Perché sto scrivendo intanto. Voterò Vendola. Faccio come Monti da Daria Bignardi, praticamente. Eccolo qua. È su Twitter in questo momento. Ha deciso voterò Vendola. Ma c'è questa foto e tra poco ne arriviamo. Perché tra poco. Prima però voglio far sentire una cosa di Berlusconi. Berlusconi che ha citato Del Debbio. In pratica ha detto che Del Debbio, che è qui da noi, e neanche Del Debbio è a Mediaset, è con lui. Sentitelo, è da Porta a Porta. Del Debbio. Quello che è venuto fuori dalle piazze è stato qualcosa che mi ha portato numerose critiche dicendo ma insomma, ma anche Del Debbio, ma anche la vostra televisione, ma anche Mediaset, non ci basta la 7, non ci basta la Rai, anche Mediaset. E quindi mi sembra non c'è mai stato in Mediaset, una volta almeno c'era Fede che coltivava grande tutte le mie vecchiette e naturalmente esagerando, adesso non c'è neppure lui, quindi veramente Mediaset è una televisione commerciale Del Debbio. Che ne avete fatto a Berlusconi? Cioè neanche non ma una volta non c'è più la fede ormai manco Del Debbio sta con Berlusconi, ma che dobbiamo fare? Vedete un po' voi lì a Radio 24 se fa qualcosa, no? No, ma qua si può dire tutto, anche no comment qua Del Debbio, si può dire tutto no. Cosa? No, ma io non c'ho nulla da dire, io faccio la mia televisione, chi la vuol vedere la vede, chi la vuol vedere si gira. Vabbè, certo, questo è il principio democratico straordinario del telecomando. Ma Qua, però c'è da dire che i rapporti con i giornalisti sono sempre un po' strani. Sentite invece Rosy Bindi, è andato un cronista di Report in Calabria e non l'ha fatto, non l'hanno cacciato, cioè finché lei non esce noi non iniziamo il convegno. C'è un problema con la nostra telecamera? No, non vogliamo nessun rapporto di cose, voi uscite, se no non incominciamo. Quindi neanche gli altri colleghi stanno? Non entra nessuno. È un seminario, purtroppo. Lei... quindi voi uscite. Ma perché a porte chiuse? Di ma che si parla? Lei non si preoccupa. No, io mi preoccupo da cittadino calabrese, da giornalista. Ti chiedo scusa. E va avanti così per due minuti. Ma Vladimir Luxuria, ma che fotografia dell'Italia è questa politica? Devo dire che dopo la Fornero adesso c'è Rosy Bindi che non parla se ci sono i giornalisti. Credo che forse Rosy Bindi, parlando di seminario, abbia fatto un po' di confusione. In questo periodo ci si parla tanto di missione del Papa, ha scambiato la sua congresso, il suo convegno per un conclave, cioè non è che sta nella Cappella Sistina dove gli altri non potevano entrare. I politici devono imparare che le loro parole, le loro dichiarazioni sono manifestazioni pubbliche e che i giornalisti hanno tutto il diritto di fare delle domande e di annotare quello che viene detto da questi politici. La questione poi è l'emblema, non so se Paolo De Debbio è d'accordo, di questa, sono tutte scorie di questa legge elettorale, ma che gli frega Rosy Bindi, tanto viene eletta, che gli frega di parlare con un giornalista, cioè che gli frega di dire le cose, tanto Rosy Bindi come tante altre, no? O no? Cioè... sì, ma poi voglio dire, ma se tu vuoi fare una cosa chiusa, no? La fai chiusa. Perché se appunto, non comunichi all'ANSA che ci sarà un seminario. Che partecipano gli iscritti, ma dopodiché la mattina vedo scritto c'è un convegno, ci vado, e poi non mi fai entrare, allora dico, ma scusa, mamma, non è... sono tutte cose che non vanno bene. Non vanno bene. Io non ne capisco, francamente, non ne vedo il motivo. No, ma tra l'altro finisce il convegno, sentite, e il giornalista, è un inviato di Report di Milena Gabanelli, ci prova a fare comunque una domanda, sentite. Proviamo a fare una domanda alla fine del convegno, ma la musica non cambia. Onorevole, grazie di essere venuta. Cioè, si parla sotto elezioni di sanità in una regione dove è un tema principale della campagna elettorale e chi si candida probabilmente nella rosa del Totoministri ad amministrare il settore tiene i giornalisti fuori. È una buona premessa, diciamo. Se non ha sentito io le rifaccio la domanda. Lei non risponde. Prima ci tiene fuori e poi non risponde. Non tengo fuori nessuno io. No, come no? Questo era un seminario a porte chiuse. Ma non c'era scritto sull'ANSA stamattina? Cioè non hanno letto bene il comunicato. Però con tutti, anche con tutti i giornalisti locali che sono venuti evidentemente in buona fede pensando di poter riprendere ed è diventata una cosa carbonara, diciamo. Cioè la capolista in Calabria del Partito Democratico non risponde sulla sanità. No, a lei no. A me no, quindi è personale la questione. Ah, è qui, è fantastica. No, a lei no. Quindi la questione è personale, Rosy Bindi. Sì, è personale. Mamma mia, ragazzi. Ma ci fu, se lo ricorda, quando Prodi disse no, quegli TG4 non ci parlo. Sì, ma no, ma succede. Non so se l'ha fatto anche Berlusconi qualche volta, al TG4, al TG4 dubito, magari al TG3, magari. Fede, adesso non c'è più fede. Anche se diciamo i motivi per cui Fede non sta più a Rete4 non sono diciamo riconducibili all'idea, alla decisione di Berlusconi sul fatto che magari era troppo dalla sua parte, diciamo che c'erano delle inchieste giudiziarie spinto a mandare via Fede. Sì, però adesso si lamenta, non c'è più Fede, non c'è più. Però Vladimir Luxuria, questa cosa di Vendola, ragazzi, Vendola, io Vendola è stato qua la settimana scorsa, è venuto nei nostri studi, è stato molto gentile e quel giorno era uscito Panorama che parlava anche della presunta amicizia col giudice che l'ha assolto e lui qui disse questi microfoni, dice querelerò Panorama, non esistono, non ricordo di averla mai conosciuta. Adesso c'è questa foto e Vendola, sentite cosa dice quando è uscita la foto che oggi viene ripresa da tutti i giornali, cioè c'è una foto in cui ci sono alcune persone a cena e tra queste ci sono Nichi Vendola, il suo compagno, e vicino il giudice che l'ha assolto. Sentiamo Vendola. Panorama risponderà in tribunale e sarà una delle ragioni per cui avrò una vecchiaia ricca e serena. Lei però aveva detto che quel giudice non lo conosceva, quella foto testimonia altro. Non vorrei portare anche lei in tribunale, ci interrompiamo qui su questa questione. Eh, ho capito, sì. Vladimir, allora avrà tutte, poi non ci sarà la causa, vedremo, però la foto c'è, non è che può dire se uno dice però c'è la foto, non vorrei portare in tribunale anche lei, ho capito, ma ci dica questa foto dove è stata fatta, in che contesto, dica che non c'entra nulla, ma dica qualcosa in più o no? Io adesso questa ci sarà un processo, quindi io non voglio entrare su questa questione, però quello che voglio dire è questo, spesso mi sono ritrovato in tavolate dopo delle conferenze oppure dopo degli spettacoli in cui neanche io sapevo chi c'era, insomma, a tavola, ed è una cosa che credo che riguardi tanti personaggi ma pubblici. dica così, era una tavolata, ci facciamo comune. Una foto insieme, cioè, delle persone dicono ci facciamo una foto insieme e ti ritrovi a essere in mezzo a un gruppo e tu non è che chiedi tu chi sei, tu chi non sei. Quindi può succedere questo, però poi... perché non l'ha detto, dice era una occasione in cui c'erano tante persone e io mi sono ritrovato di fronte a un giudice che non conoscevo, è stato piazzato vicino a me, punto, no? O no, non era stato. Invece, appena uno dice: ma scusi, c'è quella foto, risponderà anche lei in tribunale. Non so, Del Debbio. Ma insomma, in campagna elettorale cioè, sono tutti un po' nervosetti. Allora. Ho capito, no? D'accordo. Sì. Sono cose che non vanno bene. No? Se uno gli dici non le rispondo, oppure gli rispondi. Infatti, rispondere per non dire nulla. Comunque, questa vicenda. Comunque, tra le due cose è peggio la bimbi. È peggio tra le due cose, penso la pizza. Concordo. E vabbè, questo è stato un assist però per Vladimir Luxuria, concordo. Però effettivamente vendola, insomma, qualcosa in più poteva dire, non semplicemente ci vedremo in tribunale. Ma no, ma certo, doveva rispondere, non c'è dubbio. Che vuol dire ci vediamo in tribunale? Sì, no, ma a tutti, cioè se si sente diffamato ha tutto il diritto però, del mondo. Le due cose, voglio dire, insomma. Anche perché insomma io voglio anche confidare in una magistratura in cui anche se sei amico con un magistrato non è detto che questa cosa che tu possa essere amico un magistrato poi il magistrato non debba fare il suo dovere con un processo. Io conosco tanti amici giornalisti che sono poi peggiori a volte. Ma noi siamo sempre i peggiori, Vladimir. No, adesso, no, che, dico, che domande. Alcuni amici che proprio perché sanno che mi conoscono allora non vogliono fare quelli che dicono vabbè visto che ti conoscono parlare bene di te, quindi può succedere questo, no? Cioè quindi può scattare il meccanismo contrario Del Debbio, se avete quel giudice proprio perché magari è stato in una tavolata insieme è cattiva per far vedere maggior ragione che non fa sconti a nessuno, ma chi lo sa, comunque Vladimir Luxuria dice ci sono i giornalisti cattivi, qua c'è Del Debbio, cioè voglio dire, siamo i più cattivi del mondo noi, la categoria peggiore al mondo, no? Del Debbio. No. Io non ho detto i giornalisti, non ho mai detto figura, ho detto ci sono dei giornalisti che dato che ti sono amici, certo. Che li conosci, magari loro per far vedere che hanno la deontologia professionale, allora quando magari parlano di te, non dici io sono un giornalista corretto, certo. Perché pure se ti conosco, ecco guarda. Ma che io volevo dare tono, il cattivone a Del Debbio che però non ha fatto un play-se, quindi insomma va bene. Va bene così. Ma io cosa vuoi che faccia? Cioè, no, ma che non si butti giù così. Divento cattivo la sera. Ah, ecco quando parte quinta colonna, boom, in grana e poi basta. E no, lì è una questione proprio di populismo assoluto, come hanno detto. Ah, e sì, l'hanno accusata di questo. L'hanno accusato. Guardi che adesso tra un po' rientriamo. La questione del contadino di Terni non è che è finita. Cioè, io non è che non gli ho dato il numero di telefono, perché non lo troviamo neanche noi. È una situazione kafkiana. No, ma quando lo trovate, si è creato una situazione che manco immaginate. L'hanno isolato nel paese, nessuno vuol giocare più a carte con lui. È una vicenda. Ma c'è poco da ridere, ne hanno decretato quasi la morte geloso, sociale. Perché lo adotto io. Ma a sapere in che paese è, ma tra poco rientriamo, dopo il traffico vi spieghiamo tutto. 24 mattino. Professor Monti, non hai considerato la busta degli sprechi dello Stato, mentre hai attinto a piene mani dalla busta dei risparmi dei cittadini. Mario, ma stiamo scherzando? Scendi piuttosto dallo scranno che ti hanno regalato, prima che ti buttino giù. Perché sai, la terra è bassa e la zappa pesa. Ormai non c'è più alternativa qui, ci vogliono delle politiche agricole. La zappa la dobbiamo prendere tutti, perché se no, non so, fra un po' ci mangiamo i pod, gli iPhone. Perciò dai, diamoci da fare, prendiamo la zappa e via, chissà che non cambia qualcosa. Signor Berlusconi, io che non ho una casa, cosa mi restituisce? Io posso contare pure fino a 100, però erodimento del culo non mi passa. Io so 11 anni che non vado a votare e continuerò a non andare a votare per queste merde di uomini, che uomini non sono, che hanno distrutto famiglie, imprese e persone. E quello che più mi fa girare i coglioni è che gli italiani sono un popolo di merda. Li rivotiamo ancora, li rivotano, ma che ci devono fare ancora di più? Che ci devono fare? Ancora stiamo a aspettare le votazioni. Caro Mila, qua non ci vuole una rivoluzione civile, ci vuole una rivoluzione incivile. Che tagliamo a testa a tutti, a tutti! Ciao, mi è scaduto il Giannino, mi è scaduto pure il Monti, mi scadono tutti quanti e poi dicono che uno si butta a sinistra. Allora, questi sono i rumori, i suoni, le voci dei nostri straordinari italiani della segreteria telefonica. Poi vi daremo il numero, come sempre in chiusura. Siamo con Vladimir Luxuria, siamo con Paolo Del Debbio. Quello che tagliamo a testa a tutti è Del Debbio. Posso fare una previsione? Sì, sì. Prevedo l'anno prossimo, accorpati alle politiche, anche quelle nazionali, perché tanto questo governo non dura, si va a rivotare, con un nuovo partito che si chiama Più Zappa per Tutti, che avrà un grande successo e sostituirà Grillo, che ormai sarà già il vecchio. Straordinario scenario, applauso a Vladimir Luxuria. Paolo Del Debbio condivide lo scenario politico, l'analisi di Vladimir? Certamente bisogna vedere cosa fa in Parlamento, perché il Parlamento è un luogo dove si diventa vecchi prima, Invecchia velocemente. Sono i tempi biologici, sono i tempi politici. Puoi diventare vecchio in 6 mesi, insomma, oppure non diventarlo in 10 anni. Esatto. E quindi vediamo. Vediamo. Intanto sentite, ieri Grillo ancora class... Ancora, sì, certo. No, parla ogni tanto, Berlusconi mai, Monti mai, ma Grillo ogni tanto sì. E sentitelo cosa ha detto ancora Beppe Grillo, arrendetevi. Questo è un movimento che non si ferma più, è un'epidemia. Quindi devono arrendersi e uscire dal Parlamento con le mani in alto, non le faremo niente, faremo una verifica fiscale, se ne andranno come gli americani in Vietnam con l'elicottero, sai, da Saigon quando scappavano. La fuga da Saigon del Debbio a classi MBC. Però quella cosa lì al Parlamento, arrendetevi. Sì. Non erano i cadi Grillo. No, erano i missini, credo, no? All'epoca. Esatto, nel 92. Sì, contro Craxi, Grillo, contro il PSI. Sì, sì, contro tutti. Sì, però li faremo un controllino. È una tradizione segnata. Ma Vladimir deve spaventare questa veemenza, anche questa volta l'ha detto in maniera pacata, era davanti a una telecamera di classi NBC, no? Però il concetto è questo: gli faremo un controllo, non gli faremo del male, si andranno via. Ma diciamo, quello che mi ha colpito delle ultime dichiarazioni di Grillo è stato un po' anche rivendicare la vittoria a Parma, cosa che invece io avrei tenuto un po' più nascosta in questo periodo della sua campagna elettorale, perché a parlare con i parmensi in questi giorni di quello che sta facendo la giunta del sindaco di Grillo, che ha promesso per esempio no al gasificatore, poi l'hanno fatto, dove c'è ancora un buco di bilancio che ancora non hanno risolto. Cioè, il problema vero è poi dopo vedere dopo quello che succede. Vedrà, però verranno messi alla prova. Allora, il nostro contadino di Terni, c'è un giallo perché noi non ne sappiamo il numero, perché lui chiamò da casa del nipote che ora ci fa filtro, non ci vuol dire neanche il paese, un paesino in provincia di Terni di 3.000 anime, dove siccome lui ha scardinato questo sistema di potere criticando e la giunta rossa che da 50 anni è al potere, non lo fanno più giocare a briscola, ha perso il compagno al bar, è terrorizzato, non ci vuol più parlare. E lui disse così del consiglio comunale. Allora si arda su un segretario comunale e dice: la spesa non si può fare perché ci avevamo 60 milioni di deficit. Allora salta su un consigliere comunale e dice: e ben tanto dovremmo quelli, te dico, tutti a rete come matti. E salta su un altro consigliere dell'opposizione e dice: brutto imbecille, non capisci niente, quelli soldi stanno di riserva, non si possono toccare.

alla luce del credo cristiano, non la vita e la santificazione delle coscienze, ma la loro manipolazione clericale. E dice in pratica Ferrara, si finisca, insomma, i cattolici si ribellino a questo attacco da parte di tutti i grandi mezzi di informazione. C'è da sperare che i cattolici, dal Papa all'ultimo fedele, si ribellino in tempo, sappiano dire che la Chiesa, con saggezza ai suoi tempi, nella sua libertà e autonomia, farà quel che deve per diffondere le ragioni della sua fede, la gioia delle sue conquiste, l'altezza morale dei suoi dubbi, e per respingere in un dialogo adulto col mondo l'ultimo grande assalto secolarista al diritto di essere e di dirsi cristiani e cattolici. Così Giuliano Ferrara in prima pagina sul Foglio. Certo, passate queste elezioni ci si scatenerà sulla conclave. La notizia che è diventata di prima pagina per 2 o 3 giorni, poi adesso come un'ondata ci si è spostata sulle elezioni, poi passerà la questione delle elezioni italiane e poi ecco a marzo tutti sul conclave, ne leggeremo delle belle o delle brutte. Chiudo con Oscar Pistorius. Oggi è atteso il verdetto sulla possibile libertà su cauzione. E La Stampa, che sta seguendo secondo me il giornale con maggiore attenzione questa vicenda, Lorenzo Simoncelli ancora oggi da Pretoria, flop del detective, Pistorius spera la libertà su cauzione, la scarcerazione, perché la gente bota colui che è stato rimosso e che ha detto delle incongruenze, è anche indagato per omicidio di 7 persone. Questo l'investigatore che indaga su Pistorius. È stato rimosso e davvero questa potrebbe essere una mossa che va a favore della difesa di Pistorius. "24 mattino. L'Italia si desta." Eccoci qua, sono le 8:18, ben ritrovati da Alessandro Milan per l'attualità politica. Ultimo giorno di campagna elettorale, intanto abbiamo nostro ospite Giovanni Favia, che è candidato con Rivoluzione Civile in Emilia-Romagna alla Camera. Buongiorno Favia, ben ritrovato. Buongiorno. Senta, ma io ho letto una sua recente intervista in cui ha detto: ma io non ho tessere, lei non ha tessere, quello che facciamo è organizziamo e circoscritto al Parlamento. Cioè, che vuol dire? Che cambierà casacca poi, no? No, assolutamente. Vuol dire che Rivoluzione Civile è un nuovo movimento che nasce promosso da una parte di politica organizzata e strutturata, diciamo, e da una parte di movimenti. Ma per aderire a Rivoluzione Civile non c'è bisogno di tessere e non c'è bisogno di entrare nella vita associativa da alcun partito. Possono farlo cittadini liberi, come lo sono io in questo momento, che condividono le idee di Rivoluzione Civile. Come era nel Movimento 5 Stelle? Ricordiamo, lei era del Movimento 5 Stelle, uno della prima ora, diciamo. A questo proposito, lei, quando era nel Movimento 5 Stelle, aveva condiviso la regola per tutti, 2 mandati e basta, no? Però come si concilia il fatto che cambiando può candidarsi? Guardi, chi ha molto seguito in rete ha la capacità di manipolare le informazioni. Il Movimento 5 Stelle nasce con un V-Day che chiede 2 legislature parlamentari, che io non ho mai fatto, facendo una proposta di legge che si può scaricare da internet. Poi partecipa, un anno dopo decide di partecipare alle elezioni comunali con delle liste civiche indipendenti e mette come limite 2 mandati assolti, ovvero compiuti. A un certo punto io, lamentando una mancanza di organizzazione, di struttura, seppur orizzontale, e di sviluppo di punti anche per le elezioni nazionali, vado in contrasto con Casaleggio, e dopodiché Casaleggio, abusando della sua del fatto che lui scrive sul blog di Beppe Grillo e decide quindi vita, morte, miracoli del Movimento 5 Stelle, fa un dettame, perché non si può parlare di regola, dove scrive lui di sua iniziativa, come un articolo del blog, che valgono anche i mandati nei comuni interrotti. Cioè ha cambiato le regole Casaleggio, secondo lei? Sì, guardi, ancora 10 secondi, così chiudiamo questa parentesi, tanto ormai mi annoio. Dopodiché io mi metto a ridere, siamo a 1 anno e mezzo fa, anche perché la carriera non mi interessava, dico vabbè, faccio un passo indietro. Però quando lui ha iniziato a espellere tutte le persone, a fare delle cose assurde, a fare del marketing di bassa lega, io insomma non ci sono stato più, ma i due mandati non c'entra niente, non è una regola del movimento, adesso tutti credono che sia così, ma non è così. Cioè è una regola parlamentare in realtà, però poi estesa anche, hanno cambiato un po' le regole in corsa. Sì, la gente crede che io abbia iniziato a contestare per questa cosa i due mandati, in realtà è il contrario, quando io ho chiesto... No, ma io non è, la questione interno, non era la mia non era come dire che lei contestava questo, lei contestava le questioni di democrazia interna, ne abbiamo parlato, però volevo capire come si concilia, nel senso, per esempio, lei adesso è candidato, ma non ha rimesso il mandato da consigliere regionale, quindi se verrà eletto sarà in un caso chiaro di incompatibilità, dovrà scegliere. Ecco, le chiedo, visto che lei è nato politicamente a dire no, basta poltrone, non tante poltrone, come si concilia tutto questo, cioè nella sua nuova esperienza politica? Io sono sempre stato contro i doppi incarichi e lo sono ancora, tant'è che questo non è un caso di doppio incarico. Quando da consigliere comunale di Bologna col Movimento 5 Stelle su richiesta di Beppe Grillo io mi candidai in regione, mi fu chiesto dal Movimento 5 Stelle di non dimettermi immediatamente. Come vede, anche in questo caso due pesi, due misure. Ma non sfuggo dalla domanda, io penso di essere l'unico amministratore pubblico in carica che, anche se non eletto, ha già detto pubblicamente che si dimetterà. Qual è la verità? Che io non posso dimettermi adesso in pochi giorni, o perlomeno sarebbe un atto sconsiderato, perché ho il bilancio del gruppo da chiudere e noi siamo in due consiglieri su 50, ho dei dipendenti anche prima di andare via, devo rinnovare il contratto, se no poi rischieranno di trovarsi dopo la primavera dal mio successore a casa, e ho dei progetti legge che porto avanti da Ma tra l'altro quale gruppo? Cioè lei alla regione adesso è nel gruppo misto o è ancora con il Movimento 5 Stelle? Per lo stesso motivo, in accordo con l'altro consigliere, senza ovviamente forzature, del Movimento 5 Stelle, visto che io, come lei sa, sono stato riconfermato dalla base del mio movimento, certo. Io sono formalmente a livello burocratico nel gruppo, ma non uso il logo del Movimento 5 Stelle, lo faccio da consigliere indipendente. Ma vado proprio a chiudere, quindi io ho finiti i progetti legge da portare a termine con lavoro di 2 anni e mezzo, entro l'estate comunque lascerò la regione, ma l'agenda non me la faccio dettare da chi mi ha espulso. Ma cioè comunque lascerà la regione anche se non viene eletto in Parlamento? Esattamente, non sono una persona che è attaccata a... Cioè lei rischia quest'estate di non avere, se non è eletto in Parlamento, né la regione né nel Parlamento. E a quel punto, cioè, farà ancora politica? Cioè, oppure diciamo si rimarrà al mandato di, come dire, non è che uno può fare politica per 20 anni. Questo per... Ma guardi, infatti non ho risposto alla domanda. Noi abbiamo sempre detto che avremmo fatto politica per massimo 10 anni. Io credo in questa cosa, perché in politica bisogna dare molte energie, grandi motivazioni. Lo vivo come un'attività che vivo come un servizio civile, e farla tutta la vita per me non ha proprio senso. E cosa farò? Ci penserò, sicuramente non è un problema, non sono mai diventato un tossicodipendente della politica, e tornando al mio lavoro, alla mia vita privata, posso guadagnare un po' in meno stress, un po' più tempo per le mie cose, cioè, e per me stesso. Alla fine un'esperienza che ha portato che cosa? Più fastidio o più noie che gioie? Allora, le soddisfazioni sono enormi. Far politica ti fa rifiorire come persona, se la fai con grande credendoci, perché puoi discutere delle regole dello stare insieme, del futuro della tua vita, di tutta la società. E ti dà grandi motivazioni, grandi soddisfazioni, non lo nego. È anche vero che ti toglie tanto, perché ti annulli come persona, almeno per come l'ho fatta io. Penso che i politici tradizionali in realtà la vivono un po' come una pacchia o come uno status. Ti annulli però come persona. Io non faccio degli orari improponibili, non ho weekend liberi, non vedo mia figlia, però ci credo, insomma, e quindi è un qualcosa che non si monetizza, ma che dà una grande soddisfazione per me far politica. Senta, visto da candidato di Rivoluzione Civile, eccetera, però le devo chiedere, ha visto che tutti i sondaggi parlano, i sondaggi o comunque le impressioni di una valanga grillina pronta a sbarcare in Parlamento, lei come la vive? La vive bene, la vive male, con invidia? No, mi sono sempre battuto nel movimento contro le ingiustizie sociali, mediatiche, le truffe sui cittadini, e ahimè, mi dispiace dirlo, ma questa è una truffa, cioè è una cosa di incantesimo. Io ho creduto sempre nel movimento, che era il movimento dei comuni, liste civiche in mano ai cittadini che decidevano candidati e programmi, temi concreti da portare nei comuni. E lì nei comuni, quando fai la lista civica, puoi dire che non sei né di destra né di sinistra, c'è una grande esperienza in tal senso. Quando vai a governare il paese devi avere una visione più allargata di società e ti devi schierare. Grillo ci ha sempre promesso che avremmo costruito il programma con i cittadini. Questo non è stato fatto, hanno deciso molto attenti al marketing cosa dire lui e Casaleggio. Questo è un progetto di marketing che con la complicità delle TV, che mandando Grillo fanno audience, violando la par condicio, perché tu non puoi mandare comizi a reti unificati senza contraddittorio. La par condicio dice che tutti devono essere messi nelle stesse condizioni. Non ce lo dica a noi, che la conosciamo abbastanza bene. Ma guardi, perché dice che è una truffa? In che cosa è una truffa? Perché quando io ho visto il primo giorno dello Tsunami Tour, 40 giorni fa, un mese fa, e ho capito che lui avrebbe spopolato. All'epoca era all'11-12%. Perché quando ho iniziato a vedere il comizio in diretta su Sky, io so la capacità, la conosco la capacità comunicativa di Beppe Grillo. Lui è un attore comunque con una capacità drammaturgica di bucare dentro le persone enorme. Parla di pochi contenuti, se non di argomenti che gli dà la vecchia politica, che li conosciamo tutti, che sono quelli della casta, che sono quelli di tutte le schifezze che questi partiti hanno fatto. Però non capisco ancora che truffa sarebbe. Cioè, truffa sarebbe che quando lei riesce, andando tutti i giorni, per 40 giorni, nelle TV, addirittura sulle All News, praticamente in diretta, con un comizio che è congegnato, è effettivamente un copione, perché lui tutti i giorni dice le stesse cose, davanti a milioni di cittadini italiani, tu fai l'antisistema raccontando che rifiuti la TV, in realtà tu rifiuti le domande della TV. Ah, certo, quindi questo è il punto, cioè che Grillo in realtà dice le sue cose ma non accetta il contraddittorio. E la truffa è che non c'è una costruzione reale di politica, c'è una comunicazione politica molto invasiva che fa leva sul disgusto e prende il voto da persone che in realtà non lo voterebbero mai, per le cose che poi potranno fare i parlamentari, dalla destra ai moderati alla sinistra, ma riesce a incantarli con un voto emotivo, una comunicazione emotiva, non razionale, che è fantastica. Però queste cose perché lei le dice adesso? Era così perché anche non prima. È mai stato così. Perché quando noi siamo andati a prendere i voti nei comuni, noi andavamo nei dibattiti, andavamo a confrontarci con gli altri candidati e i cittadini giudicavano. Ma questa legge elettorale nazionale si sa che non servono fare comizi, tra virgolette, da parte dei candidati, tanto ci sono le liste bloccate. Ma secondo lei è giusto che gli italiani votino Movimento 5 Stelle con un Grillo nemmeno candidato, ma solo capo della coalizione tecnicamente, e che votino senza aver visto i candidati confrontati? Anche se vuole anche Monti, è così, è già in Senato e quindi non è che si vota Monti visto che è già eletto. Sì, ma Monti è in TV, risponde agli attacchi, risponde alle domande, la gente può valutare. Le ripeto, le sembra giusto che milioni di cittadini italiani voteranno un movimento di cui non conosceranno i candidati ma conosceranno, l'avranno conosciuto tramite le capacità comunicativa, cioè voteranno i comizi di Grillo in realtà, le dice, ma non il programma, non le persone, è questo, e poi questo l'incantesimo che le dice. C'è un grande personaggio con la folla, il grande leader, che è proprietario forse anche più di Berlusconi sotto un profilo legale del movimento, che ha una folla adorante che ormai lo difende per qualsiasi cosa, in mezzo non c'è niente, non c'è un controllo democratico, lui e il suo socio che ha l'agenzia di marketing che pianifica tutto e questa folla adorante. Casaleggio. Io sono contento che una forza antisistema entri in Parlamento. Ho anche rispetto sicuramente di tanti dei cittadini che entreranno con buone intenzioni, anche se ormai stanno salendo sul carro, sta salendo di tutto. Sì. Io sbadilavo carbone quando il movimento era una locomotiva e quando non c'erano interessi. Oggi il treno è un treno ad alta velocità, luccicante, dove tutti vogliono salire, perché gli italiani poi cambiano casacca in un secondo. Non interessa dove vada il treno, vedono che va veloce, che è bello e ci salgono. Allora questa cosa non piace, sta preoccupando, perché un conto è un movimento al 7, 8, 9%, che era già un grandissimo risultato, al 12%, ma qui siamo effetto 94 con Berlusconi. Quindi, cioè in 40 giorni lui ha fatto un salto di voti che è incredibile. E questo lei dice mi preoccupa. Mi preoccupa perché non è una costruzione di una buona politica, non c'è democrazia e fai delle cose che sono vergognose, cioè? Se non infami, andare da un minatore disperato nel Sulcis in Sardegna senza lavoro, di che gli darai, non che ragionerai su un reddito di no, che gli darai 1.000 euro al mese, e poi andare dall'imprenditore di Treviso altrettanto disperato e dirgli a porte chiuse aboliremo l'IRAP, perché la tassa ingiusta, da rivedere, da ripensare, perlomeno sul posto di lavoro, comunque, ma la è la campagna, è la campagna elettorale. Vabbè, comunque non è nuova politica. No, ma è chiaro, questa è la sua posizione, poi staremo a vedere. Intanto la ringrazio per la campagna elettorale, l'ultimo giorno. Giovanni Favia, grazie, ovviamente in bocca al lupo. Grazie a voi. Staremo a vedere, candidato di Rivoluzione Civile in Emilia Romagna alla Camera. 24 mattino. 8:36 minuti, allora siamo qua dopo davvero lo sfogo di Giovanni Favia, ora Rivoluzione Civile, contro anche quella che definisce una truffa da parte di Beppe Grillo negli ultimi giorni. Siamo con due esponenti, una del Partito Democratico, Alessandra Moretti, che è vice sindaco a Vicenza e candidata alla Camera. Buongiorno e benvenuta, Moretti. Buongiorno a voi. Saluto anche Anna Maria Bernini, che è onorevole uscente, è stata anche ministro per un periodo delle politiche europee e candidata al Senato in Emilia per il Popolo e la Libertà. Buongiorno, onorevole Bernini. Buongiorno. Eccoci. Buongiorno a lei, buongiorno a chi ci ascolta. Allora, e buongiorno Alessandra. Io vorrei fare sentire l'urlo, perché Moretti, vorrei partire da quest'urlo che dai ieri ha riempito un po' le piazze, e capire se vi preoccupa questo. Il mio grido è: arrendetevi! Siete circondati dal popolo italiano! Onorevole Moretti, non ancora. La Moretti, la preoccupa questo arrendetevi, siete circondati? Ma guardi, non si capisce bene cosa voglia fare Grillo. Se Grillo lo dice come comico, fa, diciamo così, sorridere, anche se è un linguaggio violento che a me personalmente non piace. Non piace nel senso che purtroppo il Movimento 5 Stelle non ci ha dato mai modo di capire quali saranno i prossimi esponenti che rappresenteranno il Parlamento italiano, non abbiamo mai avuto la possibilità di confrontarci con loro in maniera democratica sui temi, sulle proposte, sui problemi che il Paese ha. E quindi quello che mi preoccupa è che di fatto il Movimento 5 Stelle sarà un movimento esclusivamente di protesta che non contribuirà alla ricostruzione del paese, non contribuirà neanche a dare quella stabilità e solidità di cui l'Italia ha assolutamente bisogno. Ma perché, scusi, dice non si è confrontato? Cioè non è che sono persone virtuali, sono persone fisiche, hanno fatto i dibattiti, si sono presentati le persone candidate. Certo, noi vediamo Beppe Grillo sul palco, ma ci sono anche moltissime persone poi dietro. Ma in realtà questo è vero parzialmente, nel senso che non ho mai avuto, per esempio, io nel mio territorio, nella mia città, negli incontri che abbiamo fatto anche sugli organi di stampa, dalle televisioni ai giornali, la possibilità di confrontare la proposta per esempio del PD con quella del Movimento 5 Stelle. Vede, solo ieri sono apparsi dei volti sul Corriere della Sera, mi pare, però sono volti che non hanno mai parlato, presentati. Mi scusi, però settimana scorsa a Vicenza c'ero anch'io, in un consesso un po' ristretto, ma quello degli industriali, c'era il rappresentante del Movimento 5 Stelle, rappresentante del Movimento del Partito Democratico, ci hanno parlato dei programmi, insomma. Sì, ma vede, quello è un caso abbastanza eccezionale, nel senso che è stata una delle poche volte che si è sentito un esponente del movimento salire sul palco e rispondere a delle domande. Non a caso Grillo, che doveva appunto confrontarsi su delle televisioni recentemente, aveva accettato questo confronto, perché mi sembra giusto che oltre che dalle piazze uno risponda, soprattutto con dei monologhi, uno risponda a delle domande di professionisti, di persone insomma, no? Competenti, hanno la possibilità insomma di far capire alle persone quello che tu vuoi fare per questo paese, perché vede, questo paese è messo, non è diciamo che noi abbiamo una prospettiva così rosea davanti, per cui dobbiamo necessariamente dare stabilità all'Italia attraverso un governo capace, attraverso persone capaci, e in questo momento credo che dobbiamo fare questo per guardare al futuro con fiducia. Ma per lo vede come un voto soprattutto di protesta. Mi lasci chiedere la stessa domanda. Sì. Partiamo da qui, sempre dall'onorevole Bernini, poi magari vediamo sulle questioni che hanno un po' anche fatto litigare PD e PDL. Un'ultima, onorevole Bernini, questa storia della vicenda della lettera sull'IMU, ma ci arriviamo dopo. Prima Beppe Grillo, come lo giudica lei? No, su questo non me la sento di litigare con Alessandra, sono assolutamente d'accordo con lei, perché anch'io sul territorio ho avuto la stessa esperienza che lei raccontava. Non ho avuto l'opportunità di confrontarmi con degli esponenti del Movimento 5 Stelle, li vediamo in rete, li abbiamo visti ieri per la prima volta de visu su Corriere della Sera, ovviamente alcuni di loro, solamente pochi di loro, ma sono sfuggiti ai confronti. Hanno l'indicazione di non andare sulle televisioni locali, di non rilasciare dichiarazioni. Ne sono comparsi alcune solamente ieri, quindi l'idea è quella di un approccio molto autocratico da parte di Grillo, che è, lo sappiamo, un grande comico, un grande uomo di spettacolo, che è nato facendo satira politica e poi l'ha furbescamente professionalizzata portandola nella politica e intercettando una rabbia assolutamente legittima, un'istanza altrettanto legittima, a cui Grillo dà delle risposte sbagliate e soprattutto le dà in solitaria, non solamente non confrontandosi. Lui è abituato a essere one man show, a non rispondere a delle domande, si sottrae, diciamo, al maglio delle domande a cui voi giornalisti giustamente ci sottoponete, non si fa mettere alle strette, parla e basta, e cerca di fare in modo che i candidati parlino il meno possibile. Insomma, però c'è da dire che un po' di paura, almeno a leggere dai giornali, è il timore di questa oggi paura per il paese, non per noi. Questo creerebbe una sensazione di instabilità, cioè crea, dà l'impressione di una protesta senza proposta. La parte distruttiva è assolutamente prevalente rispetto alla parte edificante. Il loro programma è un insieme di proposte arraffazzonate dalla rete che non possono rappresentare un programma di governo. L'idea è quella del caos. Anche allora, se il PD adesso dice di voler fare scouting, quando lo fanno loro si chiama scouting, quando ci accusano di farlo noi si chiama mercato delle vacche. Sapevo che entravamo un po' nel clou invece del confronto del confronto tra voi due. Ecco, questa storia dello scouting è effettivamente un po' da capire. Cosa vuol dire, Moretti, fare scouting? I due fori, la politica dei due fori. Allora, io sono d'accordo. No, sapete perché ve lo dico? No, sapete perché ve lo dico? Perché oggi Libero titola che Prodi, Romano Prodi, si sarebbe incontrato con Casaleggio, il guru, il guru di Grillo. Perché? Per ottenere un appoggio da parte dei grillini per l'elezione al Quirinale. Allora, Moretti. Ma guardi, allora, intanto io concordo con quanto detto finora e aggiungo anche che è molto inquietante quanto dichiarato da Favia, che conosce molto bene i movimenti e i meccanismi, anche il fatto che i prossimi parlamentari non potranno rilasciare alcun tipo di dichiarazione, tutta la comunicazione sarà affidata alla Casaleggio Group e dovranno versare a questo molta parte della e perché allora e perché volete fare scouting su di loro? Ma intanto voglio dire adesso, allora guardi, questa parola adesso non so cosa volesse, non so cosa significhi, diciamo, no, nel concreto. Ecco, io penso questo: se dovesse succedere che in Parlamento avessimo un numero importante di parlamentari del Movimento 5 Stelle, Bersani, come capo del governo, e spero che sia lui, insomma, a guidare il prossimo governo, ha sempre dichiarato che se anche noi vincessimo con il 51% governeremo come se avessimo il 49%. Questo vuol dire che guarderemo con rispetto e attenzione, attraverso una politica della mediazione probabilmente, ad alcune proposte che andremo a proporre, a fare, a rivolgere a tutto il Parlamento e ai diversi gruppi parlamentari, compresi quelli del Movimento 5 Stelle, con i quali dovremmo necessariamente trovare un dialogo, perché guardi, o è muro contro muro, e allora dialogo sulle singole proposte, come deve fare la politica, responsabile per il bene del paese, si va a trattare. Allora, siamo con Alessandra Moretti del Partito Democratico, candidata alla Camera, e con Anna Maria Bernini, anche lei candidata al Senato, invece in Emilia per il Popolo della Libertà. Bernini, cosa invece non le piace di questo scouting? Ha visto già un tentativo, come dire, di tra virgolette comprare il consenso, d'inciucio, perché? Ma io ho molta simpatia per Alessandra, lei è bravissima ad argomentare, però questo scouting proprio non ci sta. Cioè, da un'idea politicista di maggioranze variabili, il tentativo di accordarsi sui singoli provvedimenti, è abbastanza curioso che chi, come il Partito Democratico, sta già tentando un fidanzamento che poi un giorno funziona e l'altro giorno no, con Monti. È stato un balletto curioso quello che si è visto. Monti che dice sì ci sto, se non ci sta vendola. A volte si è fidanzati, poi magari non è detto che a volte abbiamo, ci si sposi. Mi perdoni. Abbiamo il forno, diciamo, tedesco di Monti e poi il forno centri sociali di Grillo, perché un'altra eccentricità di Grillo è quella di essere certamente uomo, come dicevamo, autocratico, però con una classe dirigente, per quello che si vede, che ha già un'esperienza di militanza politica, per lo più nell'estrema sinistra, nei notaus. Ecco, però su questo le devo fare una domanda, onorevole Bernini, sì, perché arriva da anche uno, me l'ha scritta su Twitter, dice: chiede all'onorevole Bernini questo, ma come fate voi a sapere? Avete fatto un calcolo di centri sociali? In realtà ieri i giornali dicevano che i candidati con Grillo ci sono avvocati, impiegati, operai, disoccupati, casalinghe, c'è cioè un po' tutto, perché dite hanno sono, sì, i black è vero, bloc? Ha ragione chi ha twittato, ma è altrettanto vero che se si va sul loro sito e si esaminano i curricula dei candidati si vede quello che hanno fatto e diversi di loro, ma peraltro se lei fa una valutazione statistica sulle caselline che ieri comparivano sul Corriere della Sera già ce n'erano, oppure non so, mi viene in mente Agnoletto, altro insomma professionista della politica, che non è sicuramente candidato, della militanza politica. È candidato con il Movimento 5 Stelle? No, non mi sembra. Non lo so, non credo. Vittorio Agnoletto, no, non lo so, mi dà una notizia. Mi sembrava di averlo visto in qualche articolo, però non ci giurerei. Comunque sono tutti disponibili in rete, in questo loro hanno un'esibizione di curricula che dà la misura di questa loro militanza. Però ritornando al tema che lei mi sottoponeva, cioè lo scouting preliminare che Bersani ha anticipato, è abbastanza difficile mettere insieme Monti e Grillo. Queste due alleanze, come per me è già di per sé difficile mettere insieme Vendola, Casini e Fini. Ma chiunque da con Grillo? Grillo non va con nessuno. Per quanto mi... Prego? No, Grillo con nessuno, sì, ma è Grillo, cioè il Movimento 5 Stelle, non credo che faccia accordi con nessuno. Ma questa era la prospettiva di Bersani, non la prospettiva di Grillo. Noi il discorso l'avevamo impostato così. Mi sembra di avere capito che Bersani, probabilmente riconoscendo come possibile un eventuale scouting, lui intende così, una captazione di parlamentari che arriveranno alla spicciolata alle Camere, ritenesse possibile fare un po' di scouting. Però allora le chiedo questo, Limu, sa che ieri Giuliano Ferrara... Si chiama scouting sì, e non compravendita di parlamentari. Giuliano Ferrara ieri alla Zanzara ha detto che questa storia del Limu, ha detto non s'azzardi Berlusconi a mandarmi la lettera di restituzione del Limu perché, o di restituirmi Limu perché glielo infiocchetto e glieli restituisco, è una cosa vergognosa che non esiste, è una promessa della campagna elettorale questa storia del Limu, onorevole Bernini. Non è una promessa da campagna elettorale, è una proposta concreta, come tutte le proposte che noi abbiamo fatto, tra l'altro supportata da dei dati contabili, sia l'eliminazione sia la restituzione dell'IMU, noi la basiamo su dei dati concreti. La lettera è semplicemente una forma di presentazione della nostra proposta, tra l'altro è scritta in maniera abbastanza chiara. Sì. Io non credo che ci sia stata questa torma di gente che si è presentata in sedi non meglio identificate per chiedere la restituzione. Si è molto speculato, ma ci sta, siamo in campagna elettorale. A lei Moretti è arrivata? Moretti è arrivata a casa? No, non l'ha scritto Berlusconi. Se le scriveva Berlusconi diventava, andava sui giornali, no? Ma ha scritto Berlusconi che mi ridà l'Imu. Ma fa un po' sorridere questa cosa dell'Imu, cioè è una cosa, insomma non fa sorridere probabilmente quegli anziani poverini che si sono dovuti recare convinti di questo regalo preelettorale, di poter ritirare questa somma alle poste, o insomma si sono mobilitati per andare a capire insomma se si trattava, no, di una possibilità effettiva. Però guardi, io credo che dobbiamo essere seri, no? Ecco, non dobbiamo raccontare favole agli italiani. In questo momento dobbiamo parlare con un linguaggio di verità. Dobbiamo semplicemente ridare speranza a questo paese con delle proposte chiare. Guardi, prima lei parlava del Movimento 5 Stelle e anche del popolo che si sente, come dire, attratto da questo movimento, e giustamente lei ha ricordato che non sono assolutamente solo persone, diciamo, dei centri sociali, ma anzi ci sono artigiani, ci sono imprenditori, ci sono casalinghe, sicuramente ci sono anche molti giovani. Noi siamo chiamati, abbiamo la responsabilità di capire le ragioni di questa indicazione indignazione che spingono i cittadini, molti cittadini, a guardare con interesse a questo movimento. Forse l'abbiamo anche sottovalutato all'inizio, cioè non l'abbiamo preso sul serio fino in fondo, così come dovevamo. E allora la risposta a questo tipo di politica di protesta, che non costruisce nulla, ma che tende solo, come Grillo ha dichiarato, a distruggere, mi manderemo tutti a casa, il Parlamento non esisterà più. Ma quello è l'aspetto comunicativo, poi c'è un programma, come tutti hanno un programma. Ma guardi, il Parlamento deve tornare ad essere un luogo fatto di persone competenti, capaci, che hanno qualcosa da dire, che hanno qualche contributo serio da dare al Paese. Il Parlamento è l'organo legislativo per eccellenza, non possiamo, voglio dire, screditarlo in questo modo. Ma guardi che, come dice lei, c'è la risposta, ma la risposta di Grillo, cioè il successo di Grillo, siete voi, non nel senso voi due che siete qui gentilmente, ma voi come classe politica, quindi lei dice, ma perché è il termometro del malessere dei cittadini? Perché gli italiani dovrebbero dire, c'è una cattiva politica, c'è stata e c'è una cattiva politica che potrà essere sconfitta soltanto dalla buona politica. Allora la buona politica è, e perché bisognerebbe credere che la rifacciano gli stessi partiti, le stesse persone che abbiamo visto per vent'anni? Questa è la domanda. Io parlo del mio partito. Il Partito Democratico porterà in Parlamento il 70% di parlamentari nuovi, moltissimi amministratori locali, moltissimi giovani, persone che hanno fatto, voglio dire, del servizio alla cittadinanza, alla propria comunità, all'esperienza civica, la propria ragione anche di vita vissuta come proprio una vera missione. Allora, se c'è, non possiamo nasconderci dietro alle quelle 7, 8, 10, 20 persone che fanno politica da 15, 20 anni, voglio dire, c'è una marea di gente nuova che si dà da fare, che si è data da fare, che ha fatto per bene il proprio mestiere, che vuole dare il proprio contributo per migliorare il paese. Il nuovo c'è anche nel Partito Democratico. Onorevole Bernini, 40% di donne in posizioni elegibili, il PD le porta in Parlamento, e secondo me anche questo sarà un ottimo contributo per cambiare la politica, allora, per migliorarla. Questo vedremo. In un minuto però, onorevole Bernini, che devo chiudere, c'è del nuovo anche il Popolo della Libertà? Perché chiaramente le facce che vediamo, almeno quelle più visibili, non mi sembrano nuovissime, ecco. Ma sa perché? Perché le facce che noi vediamo sono quelle a cui siamo più abituati, e non vediamo tutte le persone nuove che stanno emergendo, che anche da noi stanno facendo politica, vogliono fare buona politica, perché come dicevate giustamente voi prima, fa molto più notizia la cattiva politica della buona politica, ed è purtroppo quello con cui viene a contatto la gente leggendo i giornali tutte le mattine, perché quello fa notizia. Quindi certamente il modo migliore, lei diceva giustamente, voi alimentate, voi pasturate Grillo, no? Lui è il sismografo non fa nulla. Lui fa se stesso, raccoglie. Lui è bravissimo perché fa se stesso, fa il comico, fa quello che ha sempre fatto, non fa il politico, parla contro di noi, in quel senso dicevo che c'è un elemento distruttivo e non un elemento edificante. Però sono d'accordo sul fatto che si debbano presentare, come dicevo prima, delle proposte concrete. Sì. Il modo per rispondere al malessere e alla perplessità delle persone, perché ancora ci sono degli indecisi, lo sappiamo, e abbiamo solo 48 ore per convincerli, è fare proposte efficaci, concrete, supportate da delle coperture concrete. Vi devo fermare, vi devo salutare. Vi ringrazio ovviamente Anna Maria Bernini e Alessandra Moretti, in bocca al lupo per questi ultimi scampoli di campagna elettorale, come abbiamo fatto a tutti. Grazie, a mezzanotte sarà silenzio elettorale, ma ci sarà intanto la programmazione di Radio 24, seguite su radio24.it. E un saluto da tutti, Miriam Lucchetti, Elisabetta Fuscone, Alessandro Longoni, Valentina Magri, e dall'alpino Peter Vescapè. Ci troviamo lunedì alle 6.30. 24 mattino.